Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, la borsa, oggi il recupero c'è, più 2,3% Milano, più 2% Parigi, anche Francoforte, Londra più 1,80%, l'America più 1%. Tutte ben intonate le borse, con un euro che va a quota 1,51 sul dollaro, quindi per ora timori su Dubai permettendo, le borse tendono a recuperare il terreno perso, lo fanno con i titoli che più avevano ceduto, mi riferisco a Milano, UbiBanca, qui andrebbe anche, sarebbe anche il caso di fare una riflessione, come mai ieri UbiBanca viene considerata così male che perde oltre 3% e oggi tutto è cambiato, più 4,81%, spero non sia il motivo, ma poi lo scopriremo fra mezz'ora, dei soliti report fatti da banche che magari a loro volta non avevano saputo guardare in casa propria. Comunque in pregilo più 4,80 anch'essa come Fiat, sopra i 10 euro Fiat. Arriveranno tra meno di un'ora i dati sulle immatricolazioni auto nel mese di novembre, vi dico già che tutte le anticipazioni parlano di un vero e proprio boom, più 30% addirittura le immatricolazioni secondo quanto ci risulta, il che vorrebbe dire praticamente effetto grosso, effetto forte, effetto degli incentivi auto. Exordi con conseguenza guadagna il 4,1%, Prysmian più 4, come Buzzi Unicem, il 3,90 CIR, il 3,5 Mediaset, il 3,3 Mediolanum, Mondadori il 3%, Pirelli più 2,85% come l'Automatica e il Banco Popolare e anche Eni. Chiudiamo con chi guadagna più del 2%, ossia Italcementi, Saipem e Mediobanca che fanno più 2,6%, Unicredito più 2,5, Atlantia, Autogrill e STMicroelectronics più 2,3% e le generali il 2% di rialzo. L'unico titolo negativo è Bulgari ed è negativo anche di un po', meno 2,84%, il migliore in assoluto. Sopaf più 17% e poi Vivendi bene più 7,3%. Sul fronte opposto invece male Stefanel, meno 3,4%, aeroporto di Venezia meno 3,3% e Bastoggi meno 2,90%, filatura di Pollone meno 4,40%. Allora, questa è la borsa, ne parleremo più avanti anche perché avremo aggiornamenti proprio sulla vicenda Fiat, Termini Imerese da un lato e immatricolazioni auto dall'altro, ma anche una vicenda che è giudiziaria ma riguarda molto la borsa, ossia i 750 milioni oggi, la decisione del Tribunale, mi riferisco chiaramente al titolo Mediaset, la decisione del tribunale con la fideiussione e vi arriveremo. Il numero per i vostri messaggi è 349-238-6666. In apertura commenteremo il dato diffuso oggi dall'Istat sulla disoccupazione da un lato e l'occupazione dall'altro per quello che riguarda il mese di novembre, ebbene, di ottobre scusatemi, ebbene la disoccupazione in Italia cresce purtroppo, sfonda la soglia dei 2 milioni e non capitava dal 2004, dal marzo del 2004, e questa è la notizia brutta. La notizia buona è che, meno brutta, è che nel resto d'Europa la media della disoccupazione è ben più alta, noi siamo all'8%, la media europea al 9,8%. Preoccupa poi, all'interno di questo dato che tutto sommato ci vede uscire un po' meglio rispetto alla media europea, preoccupa invece il dato sulla disoccupazione giovanile. Lì il tasso è altissimo, praticamente un giovane tra i 15 e i 24 anni disoccupato, siamo vicini al 25%. Questo ci darà anche modo, e concludo, di parlarne con Pierluigi Celli, ossia il direttore della LUIS, ex direttore generale della RAI, che ha suscitato un bel po' di polemiche ieri con una lettera che ha scritto al quotidiano La Repubblica invitando il figlio che si sta per laureare a trasferirsi all'estero, e anche qui avremo modo di capire che cosa possa valere un invito del genere e quali possono essere i rilievi. 349-238-6666, dicevo, per gli sms, rapidamente le altre notizie in breve. Petrolio in rialzo a $78 al barile a New York, oro di nuova record. Insomma, come ripartono i mercati, ripartono tutte le tendenze a cui ormai assistiamo da intere settimane, se non mesi. L'oro ha tornato un nuovo record, $1200 tondi all'oncia. Questo per i futures sull'oro con consegna a febbraio, anzi $1200,5 per essere proprio precisi. Ancora Fiat, dicevamo, avremo un approfondimento su questo. Comunque, l'incontro di oggi tra il ministro Claudio Scajola e il numero di Fiat Sergio Marchionne è servito per un confronto, per chiarire i dati a disposizione. Ha detto che ci sarà, c'è un accordo per portare avanti nelle prossime settimane un confronto intenso tra il ministero e il Lingotto. Scajola ha anche chiesto di incrementare sensibilmente la produzione in Italia e poi un impegno per Termini Imerese anche senza auto, cioè di creare un polo industriale a Termini Imerese. Perché questo? Perché Sergio Marchionne non ha fatto marcia indietro sulla decisione per cui nello stabilimento siciliano di Termini Imerese non si faranno più auto, ma si farà qualcosa di diverso che ancora non si sa. E poi Marchionne ha aggiunto: pensare di portare la produzione auto delle auto della Fiat, quelle fatte in Italia, a una quota di 900.000 vetture l'anno, non è un numero astronomico, non è impossibile, è un obiettivo assolutamente possibile, e questo target di produzione verrà indicato nella messa a punto del piano entro la scadenza fissata dal governo con assieme alle parti sociali. Poco fa però è arrivata la notizia che a Termini Imerese il Consiglio di Fabbrica ha deciso di proclamare lo sciopero dopo che l'azienda ha stabilito l'intenzione di diversificare la produzione. Appunto, a Termini Imerese in questo momento si produce la Y, la Lancia Y. E anche il settore dell'indotto ha annunciato sciopero a Termini Imerese. Allora, per quello che riguarda invece la legge finanziaria, abbiamo oggi una dichiarazione della presidente Confindustria Marcegaglia, che è tornata sul tema del cuneo fiscale. Ricorderete, fece parte della campagna anche e dell'attività di governo del governo Prodi, fu tagliato, ma più a favore delle imprese, va detto, che a favore dei dipendenti. E allora la Marcegaglia ha detto: dal peggio di questa crisi alle spalle, la ripresa è ancora lunga, occorre una maggiore attenzione alla ricerca, e soprattutto se si arriva alla detassazione del salario di secondo livello ci deve essere anche la decontribuzione. Chiediamo un rifinanziamento del credito d'imposta della ricerca, chiediamo che ci sia una maggiore attenzione in generale alla ricerca, perché accanto ai provvedimenti immediati che devono dare sostegno alle nostre imprese ancora in questi mesi difficili, noi tutti insieme dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo un po' riprogettare il futuro. Chiediamo poi che ci sia ancora molta attenzione sul tema del credito, chiediamo un rifinanziamento vero e serio del fondo di garanzia, perché le percentuali di utilizzo che il ministro Scajola sempre cita, più mi pare 188% rispetto all'anno scorso, evidenziano in modo chiaro, netto, senza ombra di dubbi, che questo è uno strumento ben utilizzato dalle imprese, ben voluto anche dalle banche. C'è un altro strumento sul quale noi da mesi puntiamo, su cui cerchiamo di sensibilizzare, che è proprio lo strumento, uno strumento vero per aumentare la capitalizzazione delle imprese. Si sta parlando con il Ministero dell'Economia, col Governo, con l'ABI, di un fondo da 3 miliardi di euro. Noi pensiamo che questo sia uno strumento utile. L'altro tema, e chiudo, che noi chiediamo è che comunque ci siano una serie di provvedimenti che vadano nella direzione di ridurre il cuneo fiscale contributivo, che è ancora un problema molto serio. Così Emma Marcegaglia, convegno a Roma sulle reti di impresa. Torniamo sul tema dei consumi, perché ieri abbiamo dato il dato americano che ha visto un deludente ponte, chiamiamolo così, tra festa del ringraziamento e l'inizio dello shopping natalizio. Un po' più alti i consumatori che hanno fatto acquisti, ma più basso e anche di un bel po' il valore, da $370 a $330 al consumatore. Oggi la Confcommercio, quindi in Italia, ha diffuso le previsioni sul Natale. I consumi dovrebbero crescere dell'1% in termini nominali, quindi, visto che l'inflazione è allo 0,7%, dello 0,3% in termini reali. Il settore che potrebbe avere il dato più positivo è quello degli alimentari, e invece l'abbigliamento, che sta soffrendo moltissimo. La nostra Anna Marino ha chiesto al presidente Confcommercio Carlo Sangalli un quadro sugli attuali consumi e soprattutto le previsioni sulle prossime festività. Dal nostro indicatore dei consumi emerge che per quanto riguarda il mese di ottobre vi è stato un aumento dello 0,4 in termini tendenziali, cioè rispetto al mese di ottobre del 2008. Allora, questo è certamente un dato confortante, però è un dato che deve essere letto e interpretato con grande cautela. Confortante perché? Perché si tratta della quinta variazione tendenziale consecutiva positiva e deve essere letto con cautela perché il confronto viene fatto con l'anno precedente, con il 2008, e soprattutto viene fatto con il secondo semestre del 2008 che è stato debolissimo. Il passaggio dalla recessione del 2009 alla ripartenza del 2010 sarà una transizione difficile anche se non soprattutto perché sconta l'impatto della crisi sulla economia reale e sulla occupazione. Vi è un dato che emerge che è certamente questo è positivo, che il clima di fiducia delle famiglie e la propensione ai consumi e il clima di fiducia delle imprese ha registrato un miglioramento. Per quanto riguarda invece i consumi di Natale, si vede qualche segnale? Con una economia in convalescenza è evidente che non sarà un Natale brillante, però le nostre previsioni non sono nere, sostanzialmente un Natale in linea con i Natali precedenti e rispetto al 2008 dovrebbe verificarsi un miglioramento anche se modesto. Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Come sentite dalla base, dallo stacco musicale, siamo nel primo tema di questa puntata e il tema oggi si chiama occupazione, o meglio disoccupazione. Dato europeo oggi, stabile in ottobre la disoccupazione, ma molto alta, al 9,8%, che tra l'altro questo per l'area euro continua a crescere, invece la disoccupazione in Europa, se si guarda tutta l'Europa allargata, va dal 9,2 al 9,8. La cosa più interessante riguarda l'Italia. Perché? Perché l'Italia conferma da un lato di avere una disoccupazione più bassa della media europea, e questa è una buona notizia se guardiamo quello che capita negli altri paesi e sapendo che nessun uomo è un'isola, nessun paese è un'isola in un'economia integrata. È un dato cattivo, ma invece se si guarda la serie storica italiana. Andiamo con ordine, più alta di noi la disoccupazione ce l'hanno in Francia, 10,1%, e ciò nonostante il presidente Sarkozy dice ma noi andiamo meglio di altri paesi. Più alta di noi ce l'ha anche la Spagna, che è tornata su livelli record di disoccupazione, quasi il 20%, al 19%. Un po' più bassa di noi ce l'ha la Gran Bretagna, 7,8%, e la Germania, 7,5%. E questa è la parte positiva. La parte negativa riguarda invece la serie storica italiana, o meglio, noi abbiamo con ottobre sfondato il tetto dei 2 milioni di disoccupati. Un tetto del genere non lo si vedeva dal marzo del 2004, per cui era da 5 anni, più di 5 anni, 5 anni e mezzo, che i disoccupati non tornavano a essere 2 milioni nel paese. E quindi il dato più alto... Il tasso di disoccupazione è in crescita sia rispetto a settembre sia rispetto al 7% di ottobre, e poi c'è una cosa che preoccupa ulteriormente, si chiama disoccupazione giovanile. Qui infatti il dato è solo brutto, c'è poco da rallegrarsi. I disoccupati giovani tra i 15 e i 24 anni toccano il 27% del totale, più di uno su cinque. Siamo più di uno su quattro non è occupato, e siamo al 4,5% in più rispetto a un anno fa. E vedremo anche di capire come questi dati si integrino con quelli sull'occupazione. Lo facciamo con il professor Carlo Della Ringa, che è docente di economia politica alla Cattolica di Milano, ed editorialista del Sole 24 Ore proprio su questi temi, sui temi dell'occupazione e del lavoro. Professore, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dicevo, non per essere pilateschi, ma insomma, qual è la parte che dobbiamo guardare di questo bicchiere? Il raffronto con l'Europa, che vede l'Italia avere una disoccupazione di quasi 2 punti percentuali inferiore, o invece il raffronto con l'Italia di un anno fa e con l'andamento dell'occupazione italiana degli ultimi anni, visto che i 2 milioni di disoccupati non si vedevano dal marzo del 2004? Entrambi i confronti hanno la loro validità, io ne aggiungerei un terzo, le previsioni. Si prevedeva, bisogna riconoscerlo, un peggioramento maggiore. Proprio con riferimento ai risultati raggiunti, risultati negativi raggiunti da altri paesi europei prima di noi, ricordiamo che noi abbiamo solo ora i dati di ottobre, perché a lungo abbiamo avuto solo quelli di giugno, mentre per gli altri paesi i dati di ottobre c'erano da tempo. Ora possiamo dire in effetti che stiamo meno peggio, ecco, usiamo questa espressione, stiamo meno peggio, alquanto meno peggio degli altri paesi europei. Sul fronte dell'occupazione, se stiamo ai dati ISTAT, dico questo perché stessa ISTAT dice per la prima volta facciamo inchieste mensili, quindi accettatele un po' con beneficio di inventario, dobbiamo sistemarle, però dal momento che l'errore non dovrebbe essere molto forte, se stiamo al dato dell'occupazione, anno su anno la riduzione a ottobre è minore di quella che c'è stata anno su anno a giugno. E bisogna riconoscere che in effetti quindi c'è un peggioramento, ma contenuto e minore del peggio che era stato previsto. Allora, anche qui dobbiamo sempre chiarire, la disoccupazione fotografa e misura il numero di persone che non hanno un lavoro o che hanno perso un lavoro tra quelli che vogliono lavorare, che cercano un lavoro. L'occupazione invece fotografa il numero di occupati su tutta la forza lavoro potenziale, quindi per esempio le casalinghe o altre figure professionali che non stanno cercando lavoro entrano come non occupati nel dato sull'occupazione, ma non entrano nella classifica di disoccupati. Questo lo dico perché se si guarda la disoccupazione appunto è all'8% tra chi cerca lavoro, mentre se si guarda l'occupazione in Italia è al 57,6%, e quindi non sembrerebbe non tornare i due conti, perché uno dice, beh, cosa succede agli altri, all'altro 43%? Nulla, è un 43% che per vari motivi non cerca il lavoro, non è occupato anche pur non essendo disoccupato. Dicevo, 57,6% gli occupati, stabili rispetto a settembre, in calo invece di 284.000 unità rispetto ad ottobre del 2008. Altro dato che mi interessa, il fatto che l'occupazione sia stabile può essere un effetto perverso, che con questo mercato del lavoro, con questa economia, molti rinuncino anche a cercare un lavoro e quindi non entrino nella classifica della disoccupazione? Sì, questo per quanto riguarda la disoccupazione, che è aumentata anche lei, di altrettanto, grosso modo, un po' di meno, di 236.000 unità da ottobre dell'anno scorso a ottobre di quest'anno. Quindi un peggioramento c'è, tale per cui il tasso di disoccupazione è andato all'8%. C'è stato un peggioramento, ma ripeto, minore di quello che ci si aspettava e minore di quello che si è verificato in altri paesi. Certamente sono aumentate anche le cosiddette persone inattive, cioè quelle che non sono né occupate né che cercano lavoro, ma talvolta fra costoro ci sono delle persone che pur non cercandolo attivamente sarebbero disponibili a lavorare, e quindi anche questo aumento della inattività potrebbe essere un segnale di debolezza, di disagio, di un po' di crisi dei redditi familiari. Però certamente noi confermiamo che il peggioramento c'è stato, però ripeto, sul fronte dei posti di lavoro persi il peggioramento è minore di quello registrato a giugno. Sul versante delle persone senza lavoro c'è stato un peggioramento con cui dovremo avere a che fare e dovremo certamente mettere in campo anche ammortizzatori adeguati, ma certamente minore di quello che c'è stato negli altri paesi europei. Questo ad ottobre. Che era un punto mese delicato. Altra domanda che arriva anche dagli sms al 349-238-6666, può essere che in realtà il dato sia anche migliore di quanto non fotografi l'Istat, perché è aumentato il lavoro nero, cioè in un periodo di difficoltà economica alcune imprese, magari piccole o fornitori, subfornitori, sono tornate a utilizzare, diciamola tutta, insomma, contratti di lavoro non ufficiali, prestazioni di lavoro in nero, perché in questo modo riescono a recuperare qualcosa sui margini? Non c'è dubbio, infatti molto spesso si dice che quando aumenta il numero delle persone inattive, cioè che non cercano lavoro e non lavorano, di fatto si nascondono fra queste persone dei lavoratori in nero. Quindi può darsi che ci sia stato questo, che è positivo dal punto di vista dei redditi familiari, ma certamente è negativo dal punto di vista sociale e economico, perché si va delle tasse e perché certamente il lavoro nero non ha tutte quelle garanzie e sicurezze anche sul lavoro che sappiamo comportano problemi alla lunga. Altro tema, visto che ne parleremo più avanti con Pierluigi Celli, direttore della LUISS, che ha scritto questa lettera, che ha creato anche molta polemica sull'invito al figlio a abbandonare l'Italia, a cercare lavoro all'estero. È particolarmente alto il dato sulla disoccupazione giovanile, che per l'Istat vuol dire dai 15 ai 24 anni, cioè raggiunge il 27%, siamo a 0,6% in più rispetto a settembre, rispetto al mese prima quindi, e al 4,5% in più rispetto all'ottobre del 2008. 27% è un dato molto alto, Zerlinga. Cioè può essere che si stia scaricando sulle categorie più deboli, appunto i giovani, chi aveva contratti più precari, chi aveva contratti di collaborazione e quant'altro, la difficoltà delle imprese, delle società? Certamente è proprio così, perché se vedi anche il tasso di disoccupazione è aumentato meno di quello generale, di tutti, di quanto non sia aumentato quello dei giovani. Cosa vuol dire questo? Che i nostri ammortizzatori, cassa integrazione, contratti di solidarietà, siamo riusciti fortunatamente a difendere i posti di lavoro esistenti, soprattutto quelli delle persone adulte, dei capi famiglia, che era il primo obiettivo da raggiungere. Però laddove c'era bisogno di ridurre l'occupazione, cosa è stato fatto? Che le imprese hanno smesso di assumere e le mancate assunzioni sono state a danno di coloro che dovevano entrare nel mercato del lavoro. Quindi purtroppo noi adesso e anche nei prossimi mesi registreremo dei lunghi periodi di attesa prima di entrare nel mercato del lavoro da parte dei giovani. Io penso che una delle nostre principali preoccupazioni saranno proprio queste: aiutare i giovani affinché non perdano, diciamo così, spirito di iniziativa, capacità di adattamento, non disperdono anche il capitale umano che hanno accumulato. Dobbiamo preoccuparci di riempire questi, diciamo, intervalli di tempo che si possono allungare fra la fine degli studi e l'inizio del lavoro. Questo va a essere la nostra principale preoccupazione. Ecco, in merito a questo che cosa si può pensare? Perché è chiaro che questi dati devono aiutare anche il governo e chi ha in mano le leve del welfare a indirizzare le risorse. Abbiamo visto che la cassa integrazione comunque sarà uno strumento vecchio, ma è un automatico e quindi ha funzionato nel mondo dell'industria, di chi appunto è anche chi l'ha avuta in deroga, e questo è sicuramente un dato positivo. Mi sembra di poter dire che, pur mantenendo, e nell'ultima finanziaria gli stanziamenti principali erano proprio per aumentare i fondi della cassa integrazione, pur mantenendo l'attenzione alta sulla cassa integrazione e sui fondi a disposizione, qui si debba pensare anche a qualcosa per la fascia che oggettivamente ne sta risentendo di più. Un dato di disoccupazione al 27% tra i giovani vuol dire avere una disoccupazione che è più di 3 volte più alta rispetto alla media del paese. Che cosa si può fare su questo fronte? Certamente, 1 su 4, e poi in aumento del 4,5% da un anno. Devo dire a questo punto che anche il governo, il ministro Sacconi, sta facendo molto bene, anche con gli interventi in finanziaria, che prevede di dare un premio alle società di interinale se mettono a posto un cassa integrato. Ecco, a questo punto con questi dati potremmo dire questo: va bene ma non basta, bisogna dare dei premi alle assunzioni anche per i giovani. Perché è giusto preoccuparsi di quelli che hanno un posto di lavoro a rischio e di mantenerglielo, ma qui si sta allungando la fila di quelli che aspettano il primo posto di lavoro e dobbiamo pensare anche a questi, come anche ai giovani che con contratti temporanei hanno perso il loro primo posto di lavoro e non hanno ammortizzatori. Ecco, un po' di attenzione, di risorse vanno dedicate anche a queste categorie di giovani. Quindi le preoccupazioni che si sentono, anche se sono un po' esagerate, come quello che invita i giovani ad andare all'estero, però certamente si collocano su un terreno che vediamo fertile di preoccupazioni, a cui bisogna dare una risposta. Beh, mi sembra chiarissimo sul ragionamento, appunto, utilizzare alcuni incentivi già ipotizzati, per esempio per le società di collocamento, utilizzati in favore dei cassi integrati. Se riescono a collocare un cassa integrato, utilizzarli anche sui giovani, inteso come chi ha appena perso il lavoro dopo essere entrato da poco nel mondo del lavoro, chi non è mai riuscito ad entrare. Grazie al professor Carlo Della Ringa, appunto, docente di economia politica alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Molti messaggi che stanno arrivando sulla disoccupazione, sul lavoro nero, sui giovani. Un po' di pazienza, adesso ci sono le informazioni di meteo. I dati, mi dispiace, non sono con lo specchietto retrovisore, attenzione, sono gli ultimi dati, gli dati più freschi che abbiamo. Avete ragione che esistono sussidi di disoccupazione in altri paesi, più alti del nostro, e poi chiariremo anche i cassi integrati, dove finiscono nella voce disoccupati o occupati. Anzi, lo diciamo subito, i cassi integrati vengono calcolati dall'Istat come occupati, quindi il dato sulla disoccupazione di 2 milioni di persone non contempla i cassi integrati. So benissimo che con 700, 600 o 800 euro al mese è un'occupazione fittizia, ma insomma è non sufficiente, ma questo è il modo in cui l'Istat calcola i dati. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, i messaggi che arrivano sulla disoccupazione, volevate sapere appunto della cassa integrazione, l'abbiamo già detto, è all'interno degli occupati, quindi i disoccupati non sono quelli che stanno percependo la cassa integrazione. Volete sapere di vari settori, uno di questi è l'edilizia, molti di voi chiedono del settore delle costruzioni. Ebbene, oggi su questo è arrivato un allarme da parte del presidente dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, perché ha detto: senza misure sono a rischio nel nostro settore, il settore delle costruzioni è in ginocchio, sono a rischio 250.000 posti di lavoro, cioè abbiamo già perso 100.000 lavoratori e ne rischiamo altri 150.000 con 20.000 imprese dell'edilizia che hanno chiuso. E allora ascoltiamolo al microfono della nostra Maria Chiara Grandis. Paolo Buzzetti. 30.000 aziende, 3 milioni di occupati, quindi con 100 associazioni siamo qui a dire che a dare un segnale di allarme, nel senso che diciamo in qualche modo la benzina è finita. Abbiamo retto il 2009 indubbiamente, come era stato anche previsto, bene nel senso che i portafogli lavori hanno continuato a funzionare, ma adesso sono finiti e si prospetta un futuro molto grave. Abbiamo già perso purtroppo 100.000 posti di lavoro e arriveremo ai 250.000 che abbiamo già annunciato qualche mese fa se non intervengono delle misure che modificano la situazione, come peraltro sta avvenendo in tutti i paesi industrializzati del mondo. Si deve ripartire dall'edilizia, ma invece qui non si sta ripartendo dall'edilizia, pur a valle di importanti provvedimenti che sono stati presi dal governo. Non ci dimentichiamo la delibera CIPE sulle grandi opere, sulle piccole opere, non ci dimentichiamo i vari piani casa, però la verità è che non succede nulla, che il sistema sotto non è in grado di dare attuazione alle decisioni politiche prese perché il meccanismo burocratico è troppo vischioso, è troppo lento, non c'è la capacità di procedere, e questo fa sì che stiamo cominciando a vedere un 2010 molto nero e pieno di preoccupazione. Allora vogliamo dalla finanziaria, tanto per cominciare, un primo segnale, e anche a livello del famoso patto di stabilità e degli interventi, lei mi chiedeva leva degli enti locali, insomma, piove sul bagnato. Nel momento di gravi crisi non solo non ci sono incentivi o aiuti per l'edilizia in senso fiscale, pur rispettando il patto, diciamo, il deficit di bilancio pubblico di cui ci rendiamo conto, ma addirittura le imprese vengono pagate con 5, 6, 7 mesi di ritardo rispetto ai ritardi precedenti. Vogliamo far fallire le imprese per salvare i bilanci dei comuni? Ma è questa davvero la strategia? Davvero non si può fare nulla? Così Paolo Buzzetti, presidente appunto dell'ANCE. È probabile che la disoccupazione possa anche peggiorare, però su questa notizia che sto per leggere alcuni di voi la vedranno come una notizia positiva. Perché? Perché con gli emendamenti governativi presentati ieri nella finanziaria, tra questi c'è anche il taglio del 27%, quasi il 30% delle poltrone degli enti locali, dei politici negli enti locali. Pensate, sono 160.000 posti. Io capisco l'importanza degli enti locali, ma insomma 160.000 posti, la riduzione del 30%, io la voglio vedere, però per ora è prevista in finanziaria, riguarda soprattutto le circoscrizioni, i difensori civici, comunali e le comunità montane. Staremo a vedere. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi parliamo di borsa e di Fiat, Termini Imerese, anche un accenno alla vicenda giudiziaria per quello che riguarda i 750 milioni, ma anche lì stanno arrivando molti sms, adesso ve la chiariamo. Per quello che riguarda infatti i Lodo Mondadori, è stata sospesa l'esecutività della sentenza. Allora, prima di arrivare a Termini Imerese, vediamo dal Lodo Mondadori, già i nostri GR vi hanno aggiornato. Comunque, sospesa ancora l'esecutività della sentenza del giudice Raimondo Mesiano, quello che ha condannato la Fininvest a pagare 750 milioni di euro a favore della CIR di Carlo De Benedetti come risarcimento per la corruzione in atti giudiziari accertata con processi penali. Il verdetto infatti sarà affrontato a febbraio in corte d'appello. Nel frattempo la Fininvest ha offerto una fideiussione alla CIR di De Benedetti, per cui attraverso una banca vi sarà questa fideiussione. Di fatto è sospeso, immagino che anche per questo il titolo Mediaset vada bene, più 4% oggi in una borsa che ha guadagnato molto bene, più 8, più 2, scusatemi, e 86%, bene anche Parigi più 2,60, Francoforte più 2,7, Londra più 2,2, l'America più 1,1%, come sempre i temi di borsa con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, una domanda. Ieri UbiBanca era la banca peggiore, il titolo peggiore del listino, se non ricordo male. C'era un report negativo. E ha perso più del 3%, il 3,5%, se vado a memoria. Oggi guadagna il 5,70%. Allora, o mi dite che è arrivata qualche altra novità importantissima, o questa assomiglia a una bisca? Ma novità importantissime non ce ne sono, c'è un report questa volta positivo di Banca Leonardo, c'è un'intervista sul Sole 24 Ore al consigliere delegato Victor Massià che ribadisce la solidità della banca e soprattutto, secondo quanto segnalano gli operatori, c'è un rimbalzo tecnico di tutto il settore che in questi giorni sta andando un po' in altalena risentendo delle notizie provenienti dal Dubai. Oggi, cioè ieri sera, sono arrivate notizie che i mercati hanno accolto positivamente sull'avvio del processo di ristrutturazione del debito di Dubai World, e ieri le banche avevano perso molto terreno, come ricordavi tu, soprattutto UbiBanca, e quindi parallelamente, anzi specularmente, oggi salgono tutte e soprattutto Ubi, che ha recuperato il 5,74% chiudendo a 9,67 euro. Io però voglio dire, adesso non ce l'ho con te, ma non è possibile che un report il giorno prima faccia perdere il titolo il 3,7%, un report il giorno dopo lo faccia guadagnare. Non è cambiato niente. Victor Messia ha semplicemente confermato che la banca è solida e nessuno aveva avuto dubbi su questo e ha fatto bene a confermarlo. Io trovo assurdo avere uno sbalzo del genere da un giorno all'altro in assenza di notizie. Comunque, vabbè. Impregilo più 5,60, anche qui immagino che adesso la situazione a Dubai va tutto bene, abbiamo scherzato, per cui Impregilo guadagna 5,6, Fiat più 5,3%, qui finalmente una notizia c'è e mi riferisco ai dati che dovrebbero uscire tra 10 minuti sulle immatricolazioni auto, più 30% in Italia, dovrebbe essere molto buono quello della Fiat, immagino sia legato a questo. Come si integra però la vicenda in Termini Imerese? Sì, per quanto riguarda Fiat, proprio l'attesa soprattutto dei dati sulle immatricolazioni, il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha anticipato, come dicevi tu, una cifra del 30%, quindi fin dall'avvio in mattinata delle contrattazioni Fiat è stato tra i titoli premiati dagli ordini di acquisto. Oggi tra l'altro si è anche tenuto l'incontro tra l'amministratore delegato del Lingotto Sergio Marchionne e Scajola, che ha avviato il confronto proprio in vista della presentazione al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi del piano industriale del Lingotto che ci sarà poco prima di Natale. Tra i temi c'è stato proprio quello dello stabilimento di Termini in Merese. Marchionne ha ribadito che il piano di Fiat non cambia e a Termini non saranno prodotte più auto e bisogna decidere cosa sarà prodotto, mentre Scajola si è dimostrato più possibilista su un futuro dell'auto a Termini in Merese. Vedremo nelle prossime settimane. Ecco, per essere proprio corretti, siccome adesso vi facciamo sentire le due voci, il ministro Scajola ha chiesto di incrementare la produzione in Italia. Da quello che ho capito io, a Termini Merese non si faranno più auto, si farà qualcos'altro, ma non auto. Allora, sentiamo prima Marchionne su Termini in Merese, in cui dice lì nello stabilimento siciliano non produrremo più l'Ypsilon, che era l'auto che producevano, si farà qualcos'altro, non sappiamo ancora cosa. Non voglio andare ad aggravare la situazione. Noi siamo stati piuttosto chiari il 16 giugno quando ci siamo visti con il ministro e con le parti sociali, che dopo la fine del 2011 non sarebbero più prodotte vetture, non avremo più prodotto vetture in Sicilia. Questo è un discorso che ha una base razionale, economica, abbiamo condiviso i dati con il ministro, quindi quella posizione là non sta cambiando. Quello che può cambiare è l'impegno verso uno sviluppo diverso di quello stabilimento, cose da lavorare con il ministro nel futuro. Questo concetto della chiusura, sto dicendo che non si faranno più vetture, cos'altro fare non si sa ancora. Chiara la frase di Marchionne, cos'altro si farà a Termini Merese non lo sappiamo ancora. Ecco, poi è arrivato l'annuncio dello sciopero dei lavoratori e anche dell'indotto. Il ministro Scajola invece ha chiesto alla Fiat di incrementare sensibilmente la produzione in Italia di auto rispetto al totale complessivamente prodotto da Fiat. Un confronto molto utile con la Fiat, con Marchionne. Abbiamo confrontato i dati, abbiamo confrontato le nostre valutazioni. La Fiat cresce nel mondo, vogliamo che cresca anche in Italia. La produzione di auto nel nostro paese è troppo debole, deve aumentare sensibilmente. Il governo è pronto a fare la sua parte, dobbiamo sviluppare maggiormente la produzione in Italia. Abbiamo concordato che il mio ministero e la Fiat proseguiranno la valutazione dei dati in queste settimane affinché la Fiat presenti nell'immediatezza di Natale al Presidente del Consiglio e alle parti sociali il piano Fiat per l'Italia. La valutazione è complessiva, esistono diversi stabilimenti in Italia, c'è un piano complessivo. Noi non vogliamo buttare al macero nessun impianto industriale nel nostro paese. Gli impianti industriali bisogna farli crescere, tanto più al sud che è debole. Dobbiamo valutare insieme quali sono le opportunità migliori perché cresca le Fiat, ma cresca anche in Italia la produzione di auto. E su questo Marchionne ha detto che la quota di una produzione intorno ai 900.000 auto all'anno in Italia è una quota assolutamente raggiungibile, non è una quota che si può tranquillamente toccare. Paolo Paronetto, altri due titoli, le CIR, ossia Carlo De Benedetti, più 4,5%, guadagnano più di Mediaset. Questo nonostante la sentenza di oggi, la decisione di oggi abbia sospeso il pagamento per il lodo Mondadori alla CIR. Sì, oggi la Corte d'Appello, il Tribunale di Milano, ha confermato la sospensione della sentenza e anche da quanto è emerso poi dall'udienza c'è anche proprio la questione che ricordavi anche tu della fideiussione che Fininvest ha accordato, ha deciso che la presenterà per garantire il pagamento della multa da 750 milioni nel caso in cui la sentenza dovesse essere confermata in appello e secondo quanto riferiscono gli operatori, se da una parte la conferma della sospensione appariva abbastanza scontata, affrontata questa novità della fideiussione. Oggi è stata ben accolta per quanto riguarda l'andamento delle azioni CIR. La stessa CIR ha espresso soddisfazione per l'esito dell'udienza, giudizio che bisogna dire è stato anche confermato da Fininvest, quindi entrambe le parti si sono dette soddisfatte. Vabbè, tutti contenti. Bulgari meno 2,8%. Sì, oggi Bulgari è in calo fin dall'avvio della seduta. Ad appesantire il titolo è la notizia che il vicepresidente Nicola Bulgari ha ceduto sul mercato un pacchetto dell'1,33% del capitale, e fin dall'avvio le quotazioni hanno risentito di questa notizia scivolando sotto i 6 euro. Allora, grazie per oggi a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda e ultima parte di Focus Economia. Dovevamo dare i migliori e i peggiori della giornata sulla borsa e poi passare al tema dei giovani e la lettera di Pierluigi Celli che molte polemiche ha suscitato. Allora, migliori e peggiori della borsa oggi: migliore Sopaf più 17%, Elica più 8%, Vivendi più 7,5%, UbiBanca l'abbiamo detto, e anche in pregiro. I peggiori: Filatura di Pollone meno 4,40, Stefanel meno 3,4% e Bastoggi meno 2,90%. Ancora, volete sapere di Wall Street? Wall Street in questo momento sta migliorando, ma si mantiene su un più 1,3%. Le borse europee hanno chiuso con un punto percentuale più, intorno al 2,5-2,7%. Buona oggi, anzi più che buona la giornata. E questo per quello che riguarda la borsa. Visto che oggi è uscito il dato sulla disoccupazione, abbiamo dedicato tutta la prima parte, buona parte della prima ora, al commento su questo dato, che ripeto è buono se si va a guardare la media europea, siamo all'8% di disoccupati contro una media al 9,7%, è cattivo, è brutto se si guarda la serie storica italiana, perché una disoccupazione all'8%, ossia 2 milioni di disoccupati, non si vedeva dal marzo del 2004. Ed è particolarmente negativo per i giovani, dai 15 ai 24 anni i disoccupati ormai sono il 27%, più di uno su quattro, è proprio di giovani, ma non solo in quanto disoccupati, parliamo adesso. Già ce ne occupammo quando fu presentato a inizio ottobre il rapporto di Italia Futura, insomma, da cui emergeva che il 40% degli italiani sopra i 50 anni affermava di aver migliorato il proprio stato sociale rispetto alla famiglia di origine, cioè i cinquantenni hanno compiuto un salto, l'ascensore sociale, come si chiama in gergo, ha funzionato. La percentuale calava bruscamente tra i quarantenni, solo il 25%, tra i trentenni sono il 21% e i ventenni al 6%. Ma diciamo, i trentenni e i quarantenni non si va oltre il 25% tra quelli che dicono abbiamo migliorato il nostro stato sociale, ed è un crollo rispetto alle generazioni precedenti. Come se non bastasse, in Italia la probabilità che un giovane compadre non diplomato si laurei è del 10%, solo del 10%, in Francia del 35%, in Gran Bretagna del 40%, e l'Italia è anche il paese dove è più forte la correlazione tra il reddito del padre e quello del figlio. Da noi 44% degli architetti figli di architetti, 42% degli avvocati, 40% dei farmacisti figli di farmacisti, e via così sulle varie categorie. Come se non bastasse, ce lo raccontava Carlo Della Ringa all'inizio del programma, la disoccupazione, i problemi dell'economia si stanno scaricando sulle categorie più deboli, sui giovani, sui precari, su chi il lavoro non l'ha mai avuto, l'ha avuto da poco, con l'invito pressante in molti casi a diventare partite IVA e quindi interrompere un rapporto di collaborazione di altro genere. All'interno di questo quadro è arrivata la lettera scritta su Repubblica da Pierluigi Celli, che non è un opinionista qualsiasi, è il direttore generale della LUIS, Guido Carli, quindi l'università della Confindustria a Roma, ed è stato anche direttore generale della RAI, responsabile di Unicredit per la direzione Corporate Identity, ha guidato Ipse 2000, insomma ha svolto diversi incarichi di prestigio. Pierluigi Celli, buonasera. Buonasera. Allora, lei ha creato molto così clamore per questa lettera in cui invitava suo figlio, che si sta per laureare, a lasciare l'Italia. E la lettera, insomma, è una lettera anche di quelle che polemiche hanno creato. Quello che puoi vedere, caro figlio, lei scrive, è che alcuni valori su cui io ti ho educato hanno sempre meno importanza in una città divisa, rissosa, fortemente individualista, pronta a svendere minimi valori di solidarietà e di onestà in cambio di un riconoscimento degli interessi personali, di prebende discutibili, di carriere feroci fatte su meriti inesistenti. Questo è un paese, lei continua, in cui se ti va bene comincerai guadagnando un decimo di un portaborse qualunque, un centesimo di una velina o di un tronista, forse poco più di un millesimo di un grande manager che ha all'attivo disavventure e fallimenti che non pagherà mai. Celli, in una battuta, però forse questo è il modo meno costruttivo per dire a un giovane che c'è un futuro? Mi faccia fare Bastian Contrario, o sì, Sebastian no, Contrario. Allora, è certamente una situazione portata al limite, nel senso che certe situazioni vanno portate al limite se vogliono fare, se si vuole capirle e se si vuole fare, accendere un dibattito su una situazione che è oggettivamente seria e drammatica, nel senso che della transizione tra la scuola e il lavoro non si parla quasi, non si è parlato quasi, e in ogni caso non si sono previste operazioni positive per aiutare i ragazzi a passare dalla scuola al lavoro in maniera che poi un avvenire fosse dato. Noi tutto sommato veniamo da una situazione, noi quando siamo entrati al lavoro abbiamo certamente avuto meno problemi di quelli che avranno i nostri figli. Con noi il futuro era probabilmente più sicuro, mentre noi consegniamo loro un futuro molto incerto. Allora, attorno a queste cose la mia sensazione era che un dibattito andasse aperto, obiettivamente sapevo che si andava incontro a una contrapposizione sui temi che poteva essere anche forte, però secondo me la cosa poteva essere utile se non altro per capire che la disattenzione che stiamo mettendo nel predisporre le condizioni per l'ingresso al lavoro dei giovani che si stanno laureando pregiudica gravemente il loro futuro. Allora, Celli, i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 sono di due tipi radicalmente diversi. C'è chi dice grazie per aver sollevato il tema, e sono molti, e altri, e anche questi non sono pochi, che dicono ma proprio lei parla che è arrivato a fare il direttore generale della RAI, insomma dovrebbe sapere come dovrebbe sapere come funzionano i meccanismi in questo paese, visto che lei ne ha fatto parte. Le chiedo una risposta tra un minuto dopo le informazioni per chi è in viaggio, e poi vorrei anche sapere se questo suo appello non sia un appello tra virgolette borghese, ossia per chi può andare all'estero. Se io fossi figlio di un operaio, mio padre non mi potrebbe dire vai all'estero, come ci vado all'estero? Allora, Celli mi deve una risposta, e le devo appunto una risposta, prego, anzi due risposte. Due risposte? Sì. La prima era proprio lei, perché... Sì, dico quello che scrivono gli ascoltatori, insomma lei che ha fatto il direttore generale della RAI dovrebbe ben sapere... Io ho fatto tante cose partendo da una posizione molto semplice. Io ero figlio di un muratore che aveva 5 figli e quindi sono molto orgoglioso di aver fatto tutta la strada senza volermi mai appoggiare a un partito. Io sono stato solo una volta indicato da una parte politica come amministratore delegato della RAI, come direttore generale della RAI, e sono anche orgoglioso di essere stato l'unico che si è dimesso proprio perché non accettava indicazioni di partito. Ok, questo sulla sua storia e sulla sua biografia professionale. E io ho, da questo punto di vista, una coscienza assolutamente tranquilla. Dico le cose che penso, ma come le ho sempre dette e come le ho sempre fatte. Con tutti gli errori, evidentemente. Ecco, la seconda obiezione, che invece è mia e non degli ascoltatori, certo, è... L'invito a un figlio ad andare all'estero, fermo restando che chi parla dopo che si è laureato è andato a lavorare all'estero e lo trova un'esperienza da raccomandare, non solo in senso negativo, ti fai le ossa, capisci come funzionano gli altri. No, ma dico, è un invito che però è se mi passa il termine, un po' borghese, cioè è più facile farlo quando tu hai anche i soldi per mantenere all'estero, comunque hai le conoscenze, l'hai formato, l'hai laureato, ma se io fossi un diplomato o non avessi nemmeno raggiunto il diploma, il mio padre cosa mi potrebbe dire? Dunque, a parte il fatto che all'estero ci vanno in tanti che non sono laureati e ne abbiamo tanti nostri connazionali, ma io l'invito di andare all'estero è chiaramente una provocazione rispetto ad una situazione che considero oggettivamente frutto di una disattenzione fondamentale per quanto riguarda il passaggio al lavoro ai giovani. Quindi non c'è niente di borghese, no, assolutamente niente di borghese, cioè semplicemente considerare il differenziale che c'è molto spesso. Quello che succede in questo paese, invece può succedere all'estero, in cui il merito, se c'è, indipendentemente dal fatto che tu abbia soldi o non abbia soldi, sei ricco o non sei ricco, se sei bravo puoi in qualche modo avere successo. Da noi è diverso molto spesso e questo è il problema. Ora, togliamoci dalla testa che io sia un invito generalizzato ad andare all'estero comunque. Ho detto a mio figlio, era francamente una provocazione, mio figlio, quella lettera io l'ho mandata a mio figlio prima di che finisse sul giornale. Finisse sul giornale soprattutto per strane coincidenze che sono del tutto, come dire, opinabili dal punto di vista di quello che doveva poi succedere. Con mio figlio abbiamo discusso, tant'è vero che mio figlio mi ha detto hai ragione, condivido quasi tutto quello che hai detto, semplicemente io ho deciso che adesso ci andrò certamente quando mi servirà per completare alcune cose che devo imparare, ma poi in Italia voglio lavorare, tranquillo. Non è il problema di stare o di andare, è il problema di come si sta in questo paese. Allora, se uno non provoca, un discorso su queste cose... No, ma noi la provocazione, Ceri, l'abbiamo tanto apprezzata che l'abbiamo invitata, per cui ci mancherebbe. Faccio il lavoro dell'avvocato del diavolo, perché questo mi sembra il mio ruolo. Allora, andiamo avanti su questo, perché alcuni ascoltatori, io uso molto in questo momento gli SMS, e dicono, vabbè, ma allora tutte le migliaia di meridionali che vanno... di giovani meridionali che si spostano al nord del paese, di fatto non stanno già vivendo la stessa situazione, perché se la situazione è bloccata come ascensore sociale nel paese, su questo non ci sono dubbi, lo dico a chi scrive, che i giovani adesso abbiano meno possibilità di crescere socialmente, quindi come status sociale, di quanto non avessero i loro padri. Non c'è un dato che vada in direzione opposta, che ne dicano poi alcuni politici. Questa è già realtà anche per chi lavora al nostro sud, eppure su questo si sente dire molto poco, Celli. In ogni caso il meccanismo è questo, si va al nord dal sud perché al sud non si trovano occasioni e al nord in qualche modo ci si deve arrangiare se non si è in qualche modo assistiti. Tanto è vero che noi in università stiamo facendo una cosa che ha un senso particolare, a parte il fatto che noi ci occupiamo moltissimo del passaggio a scuola lavoro con tutta una serie di attività e di iniziative che sono forse unico, se non sono uniche certamente non sono così diffuse. Stiamo mettendo in piedi un progetto che si chiama Controesodo, perché siamo preoccupati, come dire, di drenare risorse pregiate dal sud che poi al sud non ritornano. E quindi stiamo cercando di aiutare gli studenti che dal sud vengono, si laureano da noi, a tornare nei luoghi di origine, aiutandoli in qualche modo a inserirsi o a trovare le condizioni anche imprenditoriali in proprio per realizzare alcune attività nei territori di partenza, proprio per non impoverire il mercato. Allora, quindi anche sul sud vale la logica che lei diceva, attenzione che se tutte insomma, i cervelli, non mi piace come espressione perché sa molto così, di anatomia, ma tutte gli più intraprendenti, quelli che si mettono in gioco, che hanno il coraggio di rischiare, che non restano a casa con mamma e papà, magari lavorando in nero e ottenendo così degli accordi sottobanco, se quelli se ne vanno tutti quanti nel centro nord del paese, il sud peggiora come situazione, e questo vale complessivamente per l'Italia. Allora, due dati: tra il 1900 e il 1910 in Italia si laureavano 6.000 persone l'anno, la metà se ne andava all'estero a lavorare. Ora come ora, nel 2007, i laureati sono stati circa 300.000, all'estero sono andati 11.700. Il dato impressionante a mio avviso è che questo, quanti sono andati all'estero nel 2007 come numero, sono il triplo di quelli che ci sono andati nel 99. E questo sta a confermare che non solo è bello andare all'estero per fare un'esperienza, ma delle volte sei anche obbligato. Le chiedo, rispetto a quando mi sono laureato io o altri coetanei, le chiedo, è mai possibile, o perché secondo lei si è bloccato un ascensore sociale che in realtà in Italia funzionava abbastanza bene? Lei è figlio di un muratore ed è diventato direttore generale della RAI. Adesso sarebbe possibile, e se no, perché? Ma io credo che sarebbe possibile anche oggi, anche se oggi, come dire, il mercato del lavoro è molto più frammentato di una volta, non ci sono più le grandi aziende, ce ne sono molto di meno, sono più delocalizzate e probabilmente l'università è ancora, come dire, prepara per posizioni o per funzioni o per, con profili che non sono ancora del tutto coerenti con questa frammentazione del mondo del lavoro. E quindi c'è un lavoro grosso da fare anche all'interno dell'università, e molte università lo stanno facendo da questo punto di vista. C'è uno sforzo notevole, noi parliamo sempre male dell'università, ma all'interno dell'università c'è uno sforzo notevolissimo di cercare di capire come sta evolvendo il mercato del lavoro per preparare figure professionali che non siano obsolete rispetto a questo mondo del lavoro. Io credo che la possibilità di reinnestare questo processo ci sia. Bisogna avere, come dire, azioni di supporto e di tutela complessiva che siano un pochino più. Guardi, qual è il problema vero a cui noi andiamo incontro con la crisi dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani in questi anni qui? Che una volta la formazione vera, come dire, professionale dei giovani laureati veniva in azienda. Cioè, certo. Quando prendevi il giovane laureato, lo inserivi in azienda, i primi 2 o 3 anni erano sostanzialmente dedicati alla formazione. Adesso, ritardando il momento dell'ingresso o rendendolo precario, 6 mesi da una parte, 6 mesi dall'altra, qualche stage, eccetera, eccetera, in realtà questo tipo di formazione non viene più fatto e non c'è nessun sistema che riesca a considerarlo. No, guardi, questo le do ragione al 100%, Celli, perché per esperienza anche personale, la formazione dentro il posto di lavoro non viene più fatta. Vuoi perché arrivano troppo grandi, vuoi perché appunto saltano da un posto all'altro con i lavori interinali. Uno arriva in un'impresa, in una società, in un gruppo, e si presume che sia già operativo e nessuno insegna nulla. Ho un'ultima domanda per lei, le chiedo una risposta veramente in pochi secondi. Se i giovani sono triplicati, quelli che vanno all'estero e sono obbligati, oltre che per scelta, ad andare all'estero, la colpa non è dei padri, e visto che parliamo di questi giovani di adesso, non è dei padri sessantottini? No, io sono convinto che noi abbiamo grosse responsabilità. Io l'ho detto nella mia lettera, me ne sono assunte tutte le responsabilità, perché questo è un paese che noi lasciamo ai ragazzi in un certo stato, perché è frutto del fatto che forse non tutti, noi non abbiamo fatto lo sforzo che andava fatto per consegnarglielo in maniera diversa. Quindi non è la colpa dei figli, gran parte della colpa è certamente nostra, io in gran parte me la sento da questo punto di vista, quindi non è che voglio scaricare colpe su altri, dico semplicemente che bisogna in qualche modo aiutare e mettere la lente di ingrandimento non solo su chi perde il posto di lavoro essendo occupato e che ha una serie di tutele che in qualche modo, anche se parzialmente, lo aiutano, ma soprattutto sulla generazione che noi stiamo bruciando, creando un buco, perché questi, se non entrano al lavoro in un certo modo, c'entreranno magari più tardi, sperabilmente, ma c'entreranno in maniera precaria e meno formata. Tenga presente che nelle aziende, una volta le strutture, le tecnostrutture aziendali avevano una vita molto lunga, quindi si potevano anche preoccupare dei ragazzi che venivano e dedicare del tempo. Oggi anche nelle aziende c'è una volatilità molto grande di management. Per cui non c'è più nemmeno quel ruolo di formazione che potevano fare, diciamo, i manager di una volta. Dottor Celli, io la ringrazio, la riavremo ospite altre volte, perché il tema è un tema a cui noi teniamo tantissimo. Non c'è paese che possa avere futuro se non c'è mobilità sociale nel paese, se i figli di fanno il lavoro del padre le cose non vanno poi sempre così bene. Grazie al direttore generale della LUISS Guido Carli, Pierluigi Celli. E questo chiaramente senza voler dire che se uno fa l'avvocato di figlio di avvocato sarà un cattivo avvocato, ma attenzione ai meccanismi di protezione. Veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.